Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, un saluto da Francesco Galante, ma un saluto anche al presidente dell'Associazione Difesa Consumatori, che è con noi al telefono, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con te parliamo oggi di una cosa stravagante che è capitata, ma d'altronde se le cose non fossero stravaganti non finirebbero direttamente a essere risolte dall'Adico, credo. Ed è un racconto di una banca che aveva prestato dei soldi, questi soldi probabilmente erano già stati restituiti tutti, ma la banca li ha richiesti di nuovo. Sì, come hai anticipato Francesco, ci ritroviamo qui nuovamente a parlare di banche e in questo caso abbiamo una vicenda ambigua che ha coinvolto una nostra socia alla quale a distanza di qualche anno si è ritrovata a dover essere sollecitata di nuovo dalla banca a restituire dei soldi per effetto di un prestito riscontrato ed estinto ancora nel 2011 e di cui la persona, spaventata un po' per la situazione, si è rivolta ai nostri uffici, quali chiaramente poi hanno sbrogliato subito la matassa. Ecco, ma mi chiedo, ma è possibile che capitino queste cose? Cioè, uno paga, restituisce tutto e di punto in bianco ti ritorna, si riparte da zero, cosa sì. Da matti. Poi paga, restituisce tutto e poi si trova veramente che a distanza anche di anni ti arriva la famigerata raccomandata dove ti intimano di ripagare di nuovo tutto. In questo caso non sono certo situazioni che dovrebbero capitare, ma che invece siamo sempre qui puntualmente a dover raccontare e non è, ti garantisco, l'ultima di una lunga serie. Nel caso della signora aveva chiesto un prestito da 15.000 euro, aveva aderito a poter avere la trattenuta di un quinto dello stipendio, quindi circa 150 euro al mese per restituire l'importo richiesto. Dopodiché negli anni la banca è stata rilevata da un'altra banca, c'è stata una fusione, praticamente la Unicredit con la Fineco Bank e di conseguenza qualcosa probabilmente sarà sfuggito al loro interno, non lo so, ma la signora si è trovata di nuovo all'inizio di una situazione che sperava aver anche dimenticato. Certamente si è rivolta a noi, i quali i nostri uffici prontamente l'hanno assistita e hanno insomma anche risolto in maniera molto celere questa situazione. Beh, insomma, quindi niente di preoccupante, alla fine un paio di telefonate, qualche raccomandata e la cosa si è risolta. Però certo, sono cose che ti mettono in difficoltà, ti viene un coccolone. Allora, sono cose che mettono in difficoltà anche perché i toni di queste lettere, quando si sollecitano dei pagamenti che non si effettuano, non sono mai delle più gradite, soprattutto sono anche delle lettere che insomma fanno perdere il sonno. Certamente non sono cose che dovrebbero accadere, che prima di accadere dovrebbero almeno contattare il cliente e capire insieme col cliente dove e come si è potuto creare l'inghippo. Certamente una situazione che si è risolta abbastanza bene, i nostri uffici subito hanno impugnato la richiesta di pagamento contestandolo interamente, bisogna anche ammettere che c'è stata una buona collaborazione da parte dell'istituto bancario, ma certamente l'epilogo si è concluso con un pagamento di circa 35 euro che insomma da qualche parte risultava ancora in sospeso, ma che ha permesso alla nostra socia di poter tirar su un grosso respiro di sollievo e quindi anche poter stare tranquilla per quelle che insomma erano le cifre in ballo su questa annosa vicenda. Ecco, questo ci insegna come sempre, intanto credo, a tenere sempre una copia di quello che in passato abbiamo fatto, no? Se abbiamo istituito qualche rata di qualche cosa, teniamoci i resoconti, quelli che arrivano alla fine, anche quelli che segnalano che non c'è più debito, mettiamo da parte il fogliettino che magari può tornare utile dopo qualche anno. Sì, è un bel consiglio che un po' tutti tendono a trascurare, ma che sarebbe veramente opportuno tenerselo sempre ben in mente, perché poi soprattutto quando arrivano queste richieste di pagamento arrivano a distanza di anni e con troppa facilità si rischia di perdere documenti che poi nel caso specifico metterebbe la persona anche in difficoltà in quanto magari non potrebbe riuscire a dimostrare il contrario, quindi questo deve essere un principio che vale per tutto. Poi purtroppo non accade sempre così, non a caso qui ci sono le associazioni dei consumatori e c'è l'Adico che insomma trova sempre una soluzione. Ecco Carlo, 10 anni è meglio tenere tutti i documenti in casa? E allora l'obbligo sarebbero 5 e consigliato sarebbe 10, per cui a buone a poche parole, buon intenditore. Va bene. Allora, storia breve ma efficace, soprattutto con il risultato positivo grazie all'Adico. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, dove poi ci sono i numeri di telefono, i contatti, le cose che servono per riuscire ad avere una mano quando ne abbiamo bisogno. Grazie al presidente Carlo Garofolini. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.